insomma, bella Italia, direi. Non me l'aspettavo più. Volevo parlare solo di... Anche io ho fatto ordinare la partita, ho visto la partita, ragazzi, cioè non c'era nessuno. C'era molto storamente, erano molto giù, no? Per il fatto del un po' di differenza di essere a Pechino, invece passare dallo sfondo diretto, che sembra un punto interrogativo. Quindi non mi aspettavo chissà quale... La riunione era, detto, con questa faccia possiamo anche perdere con la faccia che avevamo alla riunione. Della partita non abbiamo neanche parlato, abbiamo parlato solamente dal punto di vista, come dire, no, siamo stati bravi fino ad ora, abbiamo vinto in America, abbiamo vinto a Roma, abbiamo perso una partita con l'Olanda e Cristo, esistiamo, qua abbiamo dato, quindi qual è il motivo che dobbiamo temere in casa alla Spagna? Siamo partiti un po' male, però vuoi dire, Martino ha giocato, Dani ha giocato due tempi, Emanuele ha giocato due tempi, cioè, hanno giocato molte ragazze, no, hanno giocato, Marta ha giocato tre tempi, ha giocato ieri, non ha giocato, quindi insomma c'è stato Federica Rocca, ha giocato molto, anzi qualcuno ha fatto anche qualcosa di greggio, anche qualche grossolano errore. Come vedi la partita di oggi, di delle 2 ore 12? Non l'ho vista, io... Se dovevo scommettere, scommettevo sulla Russia che passava. Ma se io ero lunga la Grecia, per quando mi posso impegnare, a me quello che mi comporta è domani, cioè levarmi la vita, piano di ragionati perché qual è il vantaggio, no? Quindi io, la Russia è una squadra che potenzialmente fa 12 gol all'America, 13 gol all'America, penso se non può fare 17 gol alla Grecia o all'Italia o a altre squadre. Poi chiaramente, io credo, la Grecia si è impegnata, conosco l'allenatore, mi ha detto ci abbiamo provato per onestà, però... Se parti 5-0 poi è difficile, no? Domani preferisci il Canada o la Spagna? Abbiamo la Spagna sicura, capito? Non c'è possibilità di cambio. Se la Spagna vince con 4 gol... Oggi la Spagna l'asfalta. La Spagna viene asfaltata dall'Ungheria, penso, dopo un tempo e mezzo. Se l'Ungheria gioca, allora se l'Ungheria può perdere di 4-5. Se l'Ungheria può perdere di 4-5 è qualificata. Certo, se mio nonno aveva le ruote è la stessa cosa, non credo proprio che possa succedere. Questo è per te, eh? Quale sarà la chiave domani con la Spagna? Se noi siamo sereni e giochiamo allo standard nostro, io non ho nessun... Cioè ho pochi timori, nessun timore esagerato. Se noi mantiamo il nostro standard di gioco, io credo che la Spagna è la nostra portata, no? Per girarsi proprio tutto al contrario. Può succedere nello sport, sono partite in altre storte, però credo che abbiamo le risorse per poter uscire anche da momenti di difficoltà. Oggi non ha molto brillato Elena, per esempio. Beh, basta che brilla domani, oggi può anche essere opaca oggi, basta domani, non brilli pari normalmente, non è più e nemmeno. Ha risparmiato qualcuno oggi? Tutte. Miceli neanche ha giocato. E infatti, appunto. Sì. Miceli non ha giocato, Tania ha giocato 2 tempi e mezzo, Manuela 2 tempi e mezzo, Cinzio Maddalena 2 tempi, cioè... Ha giocato molto con la Iocco, Rocco, Teresa, hai visto, ha giocato un tempo di 5 minuti. Per applaudire questo ragazzo che ha dimostrato. Certo, ha dimostrato che la Germania è una squadra che ha perso 12-8 con la Russia, no, e con la Grecia 7-5, no? Noi che stiamo giocando contro. In campo. Non giocavamo col Pakistan, sì, sembra sì, la Germania, sì. Vedete, no, ma alla fine ha giocato contro questa la Russia, mi ho visto la partita 12-8 e la Grecia 7-5, insomma, erano partite abbastanza tirate, quelle qua stavamo in parità. All'inizio forse funzionava male la difesa, eravamo un po' aggressivi, come ha detto Grillo, forse il portiere non ci ha dato una mano come le altre volte, però insomma non era questa la partita. Ieri avete visto Russia-Brasile, 13-7, insomma se la Russia gioca vince 32 col Brasile, se giocava con la grinta di oggi il Brasile mandò, scappava il morto il Brasile, cioè, non c'era possibilità. O K, grazie.